Cancro, gennaio. Il cancro inizia il mese con un potente stellium in settima casa. Venere, Mercurio e Plutone attivano la casa degli incontri. Sarà un mese molto forte dal punto di vista relazionale. Potrete fare nuove conoscenze interessanti e coinvolgenti che vi aiuteranno a rafforzare la vostra autostima ed il vostro potere personale. Giove, il nostro benevolo maestro celeste, si trova nel vostro decimo campo, dandovi la forza per tirare fuori i vostri talenti ed esprimerli senza timidezza, sia nell'ambiente lavorativo che in quello del sociale. Il 7 di gennaio il Sole si congiunge a Mercurio, aiutando le vostre capacità comunicative. Nel frattempo, Venere si sarà spostata nell'ottavo campo, dandovi preziosi consigli per gestire le vostre finanze. Il 18 Mercurio riprende il moto diretto. E finalmente le relazioni potranno prendere il volo dopo la prima fase di cautela consigliata dalla retrogradazione del pianeta. Il 21 Venere effettuerà una congiunzione con Saturno in Acquario e vi porterà concretezza e cautela nelle scelte di natura finanziaria. Il 26 Venere si sposta nei Pesci, portando un luminoso trigono al Cancro, che si potrà concedere qualche momento di dolcezza in più. Febbraio. Il 10 febbraio Mercurio entra in Acquario, aiutandovi nelle scelte finanziarie e facendovi analizzare con il giusto distacco le vostre relazioni. Il 14 Venere si congiunge in cielo con Nettuno, sarà un Valentino particolarmente sentito. E Marte, in dodicesima casa, vi aiuterà ad accettare i cambiamenti e superare le vostre paure. Il 28 avrete modo di raccogliere dei frutti in campo lavorativo o una bella soddisfazione personale, data la congiunzione di Venere e Giove nel vostro decimo campo. Marzo, mese epocale per il passaggio di Plutone in Acquario, che alleggerirà i vostri rapporti personali per dare sostegno e maggiore potere all'ottava casa. Mentre il passaggio di Saturno nell'Acquario e Pesci vi sosterrà emotivamente, aiutandovi a riprendere in mano i libri per studio o formazioni o impostare nuovi progetti di vita. Vedremo invece che nella seconda metà del mese, Venere in undicesima vi permetterà di ampliare le vostre amicizie, potendo contare su un buon sostegno sociale. Inoltre, Mercurio, Sole e Giove in decima casa vi faranno brillare sul lavoro o nelle attività che vi gratificano, dandovi ulteriori soddisfazioni. Fine marzo, Venere congiunta ad Urano vi aiuterà a tirar fuori quel filo di trasgressione che dà sale alla vita. Aprile. Intorno al 10 del mese il Sole congiunto a Giove nel vostro decimo campo vi aiuterà nel lavoro. Sfruttate al meglio gli influssi di Giove, poiché saranno orientati alla vostra realizzazione. Ancora per poco, quindi i frutti vanno colti senza tentennare. L'11 del mese nel vostro dodicesimo campo vi permetterà di fare delle riflessioni sulla vostra vita e vivrete quindi dei momenti di autoanalisi molto costruttiva. Il 20 di aprile vi sarà un'eclissi di Sole nel vostro dodicesimo campo, quindi sarà un momento buono per fare il baglio fra le amicizie da mantenere e quelle da chiudere. Si tagliano finalmente i rami secchi. Maggio. Dall'8 di maggio sentirete sicuri del vostro fascino e noterete che il vostro modo di essere sarà apprezzato intorno a voi. Il 9 del mese, Sole congiunto a Urano in undicesima, vi aiuteranno a dire tutto quello che pensate, sia in ambito lavorativo che nelle amicizie. Il 17, Giove entra in Toro, aiutandovi ora nelle associazioni e nelle amicizie. Non stupitevi se vi ritroverete nuovi contatti o a sorpresa dentro nuovi progetti. Giugno. Il mese inizia all'insegna del sentimento di liberazione, che avrà un culmine il 4, con la congiunzione di Mercurio ad Urano nel vostro undicesimo campo. Vi sentirete di dire tutto quello che avrete dentro da tanto tempo. Il 5 Venere entra nel vostro secondo campo, aiutandovi nelle finanze e nello stabilizzare le vostre risorse. Dall'11 Mercurio in undicesima vi aiuterà a trovare nuovi e insperati aiuti nell'ambito delle vostre conoscenze. Il 10 Plutone rientra in Capricorno, dandovi l'opportunità di apprendere una nuova lezione nell'ambito dei rapporti umani. L'obiettivo sarà quello di far comprendere intorno a voi e nelle persone che vi circondano il vostro vero potere personale, che per il cancro, nello specifico, si esplica attraverso l'accudimento e la cura di sé e del prossimo. Il 21 giugno, Marte, congiunto a Mercurio in dodicesima, vi darà il coraggio di effettuare dei cambiamenti che porteranno delle svolte insperate nella vostra vita. Luglio. Dall'11 di luglio Marte entra in Vergine, favorendo la comunicazione e gli spostamenti. Contemporaneamente, Mercurio entrerà nel Leone, aiutandovi nelle scelte di natura economica. Venere riprende il moto retrogrado il 23, portando i nati del Cancro ad una riflessione sull'importanza della coerenza nella sfera affettiva. Inoltre, gli ultimi giorni del mese, Venere congiunta a Mercurio faciliterà le parole di natura emotiva. Se vorrete esprimere i vostri sentimenti a qualcuno, sarà il momento buono per farlo. Agosto. Marte e Mercurio saranno nel vostro terzo campo per quasi tutto il mese, quindi sarete facilitati nelle comunicazioni e nei piccoli viaggi. Attenzione solo agli ultimi 10 giorni del mese, quando Marte si opporrà a Nettuno in Pesci. Poi, da quando il 23 anche Mercurio inizierà il suo moto retrogrado, dubbi e fraintendimenti potrebbero interferire nelle vostre relazioni, quindi siate pazienti e cauti. Gli ultimi giorni del mese saranno dedicati alla casa con Marte che entra nel quarto campo. Settembre, dal 4 di settembre, Mercurio riprende il moto diretto, aiutandovi nell'espressione e nel mettere in pratica le vostre idee. Tanto più che lo stesso giorno anche Venere riprenderà il suo moto diretto nella vostra seconda casa, aiutandovi nell'espressione concreta dei vostri affetti e rafforzando la vostra autostima. Dal 23 del mese, anche il Sole in quarta casa vi permetterà di godere appieno della piacevole serenità e del riposo nelle mura domestiche. Il 29 potrete sentirvi particolarmente trasgressivi, dato che la Venere nel cielo effettua un quadrato con Urano nel toro. Sfruttate la giornata speciale per tirare fuori tutti i rospi per poi finalmente sentirvi alleggeriti. Ottobre, dal 5 di ottobre potrete iniziare a godere degli effetti positivi di Mercurio in quarta casa, che vi aiuterà favorendo un dialogo costruttivo e leale con i vostri familiari. Dal 12 del mese, Marte in quinta casa aprirà una bellissima parentesi passionale, frizzante e dinamica. Attenzione al 28 del mese, giorno in cui una forte eclissi di Luna porterà in nati a rivivere delle amicizie, dei progetti. Utilizzate al meglio il passaggio dinamico per creare nuove strade e impostare nuovi progetti. Novembre. Dall'8 di novembre l'entrata di Venere nella quarta casa vi permetterà di godere delle piacevoli gioie della casa. Vi sentirete a vostro agio nelle pareti domestiche e avrete voglia di valorizzare la vostra casa. Dal 12 del mese Mercurio entra invece in sesta. Avrete modo di dedicarvi al lavoro e vi sentirete apprezzati per le vostre idee. Non dimenticate di prendervi anche un pochino cura di voi stessi. Il 18 novembre, giornata frizzantina, grazie al Sole congiunto a Marte nella quinta. Se avete dei figli, sarà una giornata da dedicare a loro. E comunque sicuramente non vi annoierete. Dal 24 Marte entra in Sagittario nella vostra sesta casa. Potrete mettere tutte le energie nel lavoro e vi sembrerà di ricaricarvi naturalmente. Sarà un periodo costruttivo e interessante. Dicembre. I primi giorni di dicembre vedranno il passaggio di Mercurio in settima, quindi potrete finalmente aprirvi a nuove conoscenze e Venere, che transiterà nella quinta casa con un armonico transito dallo Scorpione, permetterà a chi è single di fare nuovi incontri e per chi è in coppia di ravvivare una passione offuscata dalla routine del quotidiano. Dal 13 di dicembre Mercurio inizia il moto retrogrado, portando i nati del Cancro a rimettere in discussione rapporti che non si riveleranno più troppo utili alla loro evoluzione. Tali riflessioni si orienteranno anche in contesti lavorativi o legate ad aree di impegno sociale, dato che Mercurio dal 23 ritorna in Sagittario, dopo aver tra l'altro incontrato il Sole proprio sul discendente. In quei giorni molto molto speciali, il Cancro potrà scoprire qualcosa di segreto rispetto a qualcuno che ha un ruolo importante nella sua vita. Ci potrà essere una rivelazione, un nuovo modo di vedere persone molto vicine a lui. In generale, per il Cancro ci sarà l'occasione per aprire gli occhi su amicizie non più utili per la sua evoluzione, un anno di scelta nel corso del quale riuscire a ritagliarsi un ruolo nel mondo, superando le sue paure più inconsce legate al sentirsi inadeguato al mondo dei grandi. Il Cancro in questo anno molto molto speciale avrà la possibilità di crescere spiritualmente e farsi apprezzare e rispettare dal prossimo, e tale cambiamento sarà molto importante per il suo sviluppo animico.